Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Quando Joe rientrò in casa alle 10:05, trovò mia sorella per terra sul pavimento e subito chiamò aiuto. A quell'ora il fuoco era insolitamente basso, né il lucignolo della candela era molto lungo, però la candela era stata spenta. Nulla era stato asportato dalla casa, né all'infuori della candela spenta vi erano segni di disordine nella cucina, ad eccezione di quelli prodotti da lei stessa nel cadere e perdere sangue. Pure sul luogo trovammo un indizio degno di nota. Mia sorella era stata colpita con qualcosa di smussato e pesante alla testa e alla schiena. Dopo che i colpi le erano stati inferti, un oggetto pesante le era stato scagliato addosso con notevole violenza, mentre ella giaceva bocconi. E sul pavimento vicino a lei, quando Joe la rialzò, vi era un ferro da forzato che era stato segato con la lima. Ora Joe, esaminando questo ferro con l'occhio dell'esperto, dichiarò che esso era stato limato già da qualche tempo. Del fatto giunse notizia alla galera e coloro che ne vennero ad esaminare il ferro confermarono il parere di Joe. Non seppero precisare quando esso aveva lasciato la nave prigione, a cui senza dubbio aveva appartenuto un tempo, ma affermarono con certezza che quel tipo particolare di ferro non era stato portato né dall'uno né dall'altro dei due forzati evasi la sera prima, uno dei quali del resto era già stato riacciuffato ancora col ferro al piede. Sapendo quel che sapevo, giunsi per conto mio alla conclusione che il ferro fosse quello del mio forzato, il ferro che gli avevo visto e sentito limare nella palude. Pure non lo accusai, in cuor mio, di essersene servito per quest'ultimo uso, perché ritenevo che altre due persone potevano esserne venute in possesso ed averne approfittato in modo così crudele, Orlick oppure lo straniero che mi aveva mostrato la lima. Ora, per quanto riguardava Orlick, egli era andato in città proprio come ci aveva raccontato quando l'avevamo incontrato alla barriera. Era stato visto in giro per la città tutta la sera, si era trattenuto in compagnia di varie persone in parecchie osterie ed era tornato indietro insieme a me e al signor Wopsle. Non vi era nessuna prova contro di lui, se non il litigio, e mia sorella aveva litigato con lui e con tutte le altre persone che vivevano attorno a lei migliaia di volte. Quanto allo straniero, se egli fosse tornato indietro per riavere le sue due banconote, ciò non avrebbe potuto fornire un motivo di discussione, poiché mia sorella era prontissima a restituirle. Inoltre non vi era stata colluttazione. L'assalitore era entrato così silenziosamente all'improvviso che ella era stata abbattuta prima ancora di potersi voltare. Era orribile pensare di essere stato io a fornire, sia pure involontariamente, l'arma del crimine, ma non potevo giungere ad altra conclusione. Ne fui indicibilmente sconvolto e ricominciai a considerare se fosse il caso di sciogliere quell'incantesimo che mi opprimeva sin dall'infanzia, raccontando a Joe tutta la storia. Da allora in poi, per mesi e mesi, rimuginai la questione ogni giorno, concludendo in senso negativo, per poi riaprirla e riconsiderarla da capo l'indomani mattina. Il dibattito aveva sempre lo stesso esito. Il segreto era ormai tanto vecchio, tanto cresciuto in me, divenuto parte di me stesso, che non potevo infrangerlo. Oltre al timore che, dopo essere stato la causa di tanto guaio, avrei finito per perdere l'affetto di Joe, se egli mi avesse creduto, mi tratteneva ancora di più la paura che egli non mi credesse. Ma al pari dei cani immaginari e delle costolette di vitello, lo ritenesse una pazzesca invenzione. I poliziotti e gli agenti di Bow Street, giunti da Londra, perché tutto ciò accadeva al tempo della vecchia polizia in panciotto rosso, gironzolarono per casa una settimana o due, facendo presso a poco quello che ho sentito e letto che simili personaggi fanno in casi del genere. Arrestarono parecchie persone visibilmente innocenti, si ficcarono in testa idee completamente sbagliate e si ostinarono a cercare di conformare i fatti alle loro conclusioni, invece di dedurre le conclusioni dai fatti. Inoltre indugiavano volentieri sulla porta dei tre allegri barcaioli, con tale aria di gente informata e riservata da riempire di ammirazione tutto il vicinato, e prendevano il bicchiere in mano con un fare così misterioso che era quasi come se avessero preso il colpevole. Quasi, ma non proprio, perché non lo presero mai. Per molto tempo dopo la partenza delle autorità costituite, mia sorella rimase a letto gravemente ammalata. La vista era lesa, sicché la vedeva doppio e tendeva la mano verso tazze di tè e bicchieri di vino inesistenti, ignorando quelli reali. Anche il suo udito era assai menomato, la memoria pure, e quanto al linguaggio, era incomprensibile. Quando alla fine si riprese tanto da poter essere trasportata da basso, fu sempre necessario tenerle accanto la mia lavagnetta, in modo che potesse esprimere per iscritto ciò che non riusciva a esprimere a parole. Tuttavia il suo carattere era assai migliorato, e così la sua pazienza. Un tremito e un'incertezza di tutte le membra presto divennero in lei abituali, e in seguito, a intervalli regolari di 2 o 3 mesi, la vedevamo spesso portarsi le mani al capo e rimanere così per circa una settimana, in un accesso di malinconia morbosa. Non sapevamo dove rivolgerci per trovare qualcuno che potesse assisterla, quando una circostanza venne in nostro aiuto. La prozia del signor Wopsle sormontò la sua inveterata abitudine a vivere e Biddy entrò a far parte della nostra famiglia. Circa un mese dopo che mia sorella era ricomparsa nella cucina, Biddy si trasferì da noi con una vecchia cassetta che conteneva tutto ciò che ella possedeva sulla terra e diventò la benedizione della casa. Fu una benedizione soprattutto per Joe, perché quel caro uomo era tanto afflitto dalla continua contemplazione delle penose condizioni della moglie che la sera, mentre l'assisteva, soleva volgersi verso di me di tanto in tanto e dire, coi suoi occhi azzurri bagnati di lacrime, «Che bella donna era una volta, Pip!» Biddy cominciò subito ad occuparsi di lei con tanta intelligenza che pareva l'avesse seguita sin dall'infanzia. E Joe poté godere in certo modo della maggior tranquillità che avesse mai avuto in vita sua e andarsene ogni tanto ai tre allegri barcaioli, una distrazione che gli fece bene. Con caratteristico acume, quei poliziotti avevano sospettato tutti quanti, dal primo all'ultimo, del povero Joe, sebbene egli non lo sia mai venuto a sapere, e all'unanimità lo avevano giudicato uno degli individui più astuti che avessero mai conosciuto. Ebbe allora inizio per me l'esistenza monotona di un operaio, variata oltre i confini del villaggio e della palude solo dal rinnovarsi del mio compleanno e da una mia seconda visita alla signorina Havisham. Trovai ancora Sarah Pocket di guardia al cancello, trovai la signorina proprio come l'avevo lasciata, che mi parlò di Estella esattamente allo stesso modo, se non con le stesse esatte parole. Il colloquio durò soltanto pochi minuti. La mia diede una chimera quando stavo per andarmene e mi disse di tornare di nuovo al mio prossimo compleanno. Dirò subito che questa divenne una consuetudine annuale. La prima volta cercai di rifiutare la Guinea, ma senza altro risultato che di spingerla a chiedermi in tono rabbioso se mi aspettavo di più. Allora e sempre, in seguito, l'accettai. Era tutto così immutabile in quella triste vecchia casa. La luce gialla nella stanza oscurata, lo spettro avvizzito sulla seggiola accanto allo specchio della toeletta, che l'arresto degli orologi pareva avesse fermato il tempo in quel luogo misterioso dove tutto rimaneva fermo, mentre io e ogni altra cosa fuori di esso diventavamo vecchi. La luce del giorno non penetrava mai nella casa, sia nei miei pensieri e ricordi, sia nella realtà. La cosa mi sconcertava e sotto il suo influsso continuai in fondo al cuore ad odiare il mio mestiere e a vergognarmi della mia casa. Tuttavia, impercettibilmente mi accorsi di un mutamento in Bitti. Ora portava delle scarpe non più scalcagnate. I suoi capelli erano soffici e curati, le sue mani sempre pulite. Non era bella. Aveva qualcosa di ordinario e non avrebbe mai potuto essere una Estella, ma piacente e sana e di buon carattere. Non era passato neppure un anno dalla sua venuta fra noi. Ricordo che aveva appena smesso il lutto, quando lo notai, e una sera mi accorsi dei suoi occhi, stranamente intelligenti e pensierosi. Occhi molto belli e pieni di bontà. Me ne accorsi alzando gli occhi da un compito in cui ero assorto, quello di trascrivere alcuni brani di un libro per istruirmi a un tempo in due modi, con questa specie di stratagemma, e vedendo Biddy che mi osservava, posai la penna e Biddy smise di lavorare ad ago senza posare il lavoro. «Biddy, come fai?» dissi. «O io sono molto stupido, o tu sei molto brava. Cos'è che faccio?» replicò Biddy sorridendo. «Non lo so». Era lei che faceva andare avanti la nostra casa in modo perfetto. Ma io non pensavo a questo, seppure la sua abilità di massaia rendeva più sorprendente ciò che vedevo dire. «Come fai, Biddy?» dissi, «ad imparare ogni cosa che io imparo e a procedere sempre di pari passo con me». Cominciavo a sentirmi piuttosto fiero della mia istruzione, alla quale consacravo le ghinee dei compleanni e la maggior parte del denaro destinato alle mie minute spese, sebbene ora mi renda conto che a quel prezzo il poco che imparavo era estremamente caro. «Potrei chiedere altrettanto a te», disse Biddy. «Come fai?» «No, perché la sera quando rientro dalla fucina, ognuno mi vede studiare, ma nessuno vede mai te, Biddy». «Forse imparerò per contagio come si prende la tosse», rispose Biddy sommessamente, e riprese a cucire. Seguendo il corso del mio pensiero, appoggiato all'indietro nella poltrona di legno, e osservando Biddy intenta a cucire, la testa piegata da un lato, cominciai a pensare che era una ragazza piuttosto straordinaria. Infatti, ora ricordavo, era anche edotta dei termini del nostro mestiere, dei vari nostri lavori, dei vari nostri strumenti. Insomma, tutto ciò che io sapevo, Biddy lo sapeva. Teoricamente, ella era un fabbro valente quanto me, e forse anche migliore. «Tu sei una di quelle persone, Biddy», le dissi, «che sanno trarre il miglior partito da ogni occasione». «Non ti si è mai presentata l'occasione prima di venire qui. Ma lo vedi quanti progressi hai fatto?» Biddy mi guardò per un istante e continuò a lavorare. «Però sono stata la tua prima maestra, no?» disse mentre cuciva. «Biddy!» esclamai stupito. «Piangi?» «No, non piango», disse lei alzando gli occhi e sorridendo. «Che cosa te l'ho messo in testa?» «Che cosa avrebbe potuto mettermelo in testa, se non il luccichio di una lacrima che cadeva sul suo lavoro?» Rimasi in silenzio, rievocando lo stato di schiavitù in cui ella aveva vissuto, finché la prozia del signor Wopsle non aveva trionfalmente sormontato quella cattiva abitudine di vivere, di cui sarebbe assai desiderabile che certa gente si sbarazzasse. «Biddy», osservai quando ebbi finito di rimuginare la cosa, «tu sei stata la mia prima maestra. E questo in un'epoca in cui non pensavamo certo di trovarci un giorno insieme come ora, in questa cucina. Ebbene, dobbiamo chiacchierare insieme un poco di più, come facevamo una volta. Ed io ti consulterò un poco di più, come facevo una volta. Domenica prossima faremo una passeggiata nella palude e una bella chiacchierata». Adesso mia sorella non veniva mai lasciata sola, ma Joe era dispostissimo ad occuparsi di lei il pomeriggio di quella domenica, quando Biddy ed io uscimmo insieme. Era estate e una giornata magnifica. Oltrepassati il villaggio, la chiesa e il cimitero, ci trovammo nella palude e cominciammo a vedere le vele dei bastimenti in navigazione. Ed io incominciai, secondo il mio solito, a collegare quello spettacolo con la signorina Havisham ed Estella. Quando poi, arrivati alla riva del fiume, ci sedemmo sulla sponda, con l'acqua che mormorava ai nostri piedi, rendendo il silenzio ancor più profondo che se fosse mancato quel suono, decisi che tempo e luogo erano propizi per confidarmi con Biddy. «Biddy», dissi dopo averle fatto promettere il segreto, «voglio diventare un signore». «Oh, non lo vorrei se fossi in te. Non credo che ne valga la pena». «Biddy», disse in tono un poco severo. Ho delle ragioni particolari per voler diventare un signore. Tu sei molto più istruito di me, Pip. Ma non credi di essere più felice così come sei? Biddy! Esclamai impaziente. Non sono affatto felice così come sono. Sono disgustato dal mio mestiere, dalla mia vita. Non mi sono mai piaciuti da quando ho iniziato il mio contratto. Non dire assurdità. Ho detto delle assurdità? Chiese Biddy inarcando le sopracciglia senza scomporsi. Mi spiace. Non volevo. Desidero solo che tu agisca bene e sia soddisfatto. Ebbene, allora devi capire una volta per tutte che io non sarò mai, né potrò mai essere soddisfatto. Anzi, non potrò essere altro che infelice. Proprio così, Biddy. Finché non riuscirò a fare una vita molto diversa da quella che faccio adesso. Che peccato! Esclamò Biddy scrollando il capo desolata. Se io avessi potuto abituarmi, dissi a Biddy strappando l'erba corta che mi era vicina, proprio come una volta mi ero strappato i capelli per sfogarmi e li avevo gettati nel pozzo della birreria. Se io avessi potuto abituarmi e avessi avuto anche soltanto la metà della passione che avevo per la fucina quando ero piccolo, lo so che sarebbe stato molto meglio per me. Tu ed io e Joe non avremmo desiderato nulla di meglio allora. E Joe ed io forse saremmo diventati soci una volta finito il mio contratto. E forse, diventando grande, ti avrei perfino corteggiata. E avremmo potuto sederci su questa stessa riva in una bella domenica, ben diversi da quelli che siamo oggi. Avrei potuto andar bene per te, no, Biddy? Biddy sospirò guardando le navi che passavano veleggiando e in risposta affermò: sì, non sono eccessivamente difficile. Non era una frase molto lusinghiera, ma sapevo che l'intenzione era buona. E invece, dissi strappando altra erba e masticandone qualche filo, vedi un po' come sono insoddisfatto, irrequieto, e che mi importerebbe di essere ordinario e volgare se nessuno me lo avesse detto. Biddy volse subito il viso verso di me e mi scrutò assai più attentamente di quanto non avesse guardato le navi che passavano. Non è una cosa né molto vera né molto educata da dire, osservò volgendo di nuovo gli occhi verso le navi. Chi te l'ha detta? Rimasi sconcertato, perché avevo incominciato a sfogarmi senza prevedere dove sarei giunto. Ora però non era possibile ricorrere a sotterfugi e risposi: quella bella ragazza che era in casa della signorina Havisham. Ed è più bella di qualsiasi altra, ed io l'ammiro terribilmente. E per causa sua voglio diventare un signore. Fatta questa folle confessione, mi misi a gettare nel fiume l'erba strappata, con l'aria di essere tentato di seguirne la sorte. Vuoi diventare un signore per farle dispetto o per conquistarla? Mi domandò tranquillamente Biddy dopo una pausa. Non so, risposi sgarbatamente. Perché se è per farle dispetto, Biddy proseguì, penserei, ma tu ne sai più di me, che ci arriveresti meglio e più facilmente non badando affatto alle sue parole. E se invece è per conquistarla, direi, ma tu ne sai più di me, che non merita di essere conquistata. Esattamente ciò che io stesso avevo pensato molte volte. Ma come avrei potuto io, un povero ragazzo di paese, ammaliato, evitare quella meravigliosa incoerenza in cui cadono ogni giorno gli uomini migliori e più saggi? Sarà verissimo, disse a Biddy, ma io l'ammiro enormemente. E giunto a questo punto mi buttai con il viso contro terra, afferrai saldamente i miei capelli ai due lati della testa e tirai con tutte le forze, pur sapendo che quel mio sentimento era così folle e mal riposto che sarebbe stato mio dovere sollevare quella mia testa per i capelli e sbatterla contro i sassi per punirla di appartenere ad un simile idiota. Biddy era la ragazza più assennata del mondo e non cercò più di farmi ragionare. Posò la mano, una mano consolatrice seppure resa ruvida dal lavoro, sulle mie mani, una dopo l'altra, e con dolcezza le staccò dai capelli.